Emanuele, mi senti? Emanuele, mi senti a me? Com'è la mia radio, Emanuele? 1, 2, 3, prova. Me? Adesso ti sento basso basso, il livello può remerci. Come esci così basso? E sviare com'è, Emilio mio? 1, 2, 3, prova di modulazione. Non ne ho eco io. Com'è? 1, 2, 3. Avanza. E allora? Non ho capito. Cosa? Basso, basso, Emanuele. Aspetta, vai sul 23. CQ10, c'è qualcuno? C'è qualcuno qua? Attenzione 10. Hola, c'è qualcuno qua? CQ10? Sta facendo male, Natali. Cosa c'è? Stai facendo male, c'è un innesco. E adesso c'è l'innesco? Adesso no. K era troppo alto il macchinino. Andiamo bene, andiamo. 7 di euro. Perdo. Andiamo bene, ghiacci. Cosa ti fa male, Luca? No, nulla. Vedi, mi sta la cazzo in casa. Oh, yeah. Scarittava. C'è sempre un cazzo di medico con un codice enorme e me lo deve mettere in culo, lì. Cioè io li vorrei dire. Per carità proprio, va. Cazzo, ma la una rigata che prima camminava, so. Cioè noi non cammina, va. Cazzo non si regge, no, c'ha forze. Non so più da cazzo fa, si viene a chiamare il medico. C'è il medico all'ospedale per vedere mamma perché così adesso. Infatti chi mi cura, sì, ho capito, ti curano, ci sta, però non è così. Luca, Luca, attenzione Luca, ehi non mi intende, no, attenzione Luca, Luca, davvero, Luca, non uscendo so, e come non mi sente, attenzione Luca, canale 10, cambia. Tutti dormiti sono. Attenzione Luca. Ehi, attento a solo. Mi senti? Se ti ho risposto ti sento. Come ti ho chiamato, non mi hai risposto? Non mi controllo in radio. Sta scendo bene. K. Natalino ci sei? Natalino lo sento io. Natalino ci sei. Boh. Sì, ragazzi, comunque va bene tu lì. Io va bene. K, come dai, sei amplificata? A voglia, perfetta. Ok. Lo faccio così, sul microfono allora, dai. L'ho adattato su 23 canali. Va bene. Non so come mi male comunque. Ti stava chiamando anche Emanuele, non lo sentivi? No, lo sento Emanuele, prima lo sentivo, lo arriva. Troppo con REM, cieca. No, con REM non ne ho, non arriva proprio, è basso, basso, basso. Volevo se dovrebbe mettere una boomerang lì fuori dalla finestra, come ha fatto Antonio Bombolino, esce bene, però se lo mettevo la tela così non fa nulla. E comunque c'è molta propagazione pure. Emanuele, comunque sì, sei più basso, sono dico 5 Emanuele. Qui arrivavi 9,5, 9,10, che stava sei basso, avevo ragione più basso. No, tu arrivavi così quando spostavi l'antenna. E infatti Luca non ti sente. Allora, arrivo subito con la porta del cane. E dai, tanto io devo spegnere che devo fare cosa. Ciao, ci sentiamo Luca. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Emanuele, sto chiudendo, dai, ci sentiamo. Attenzione canale 10. Chi è? Avanti. Ah, è Gianni Landini. Ah, io credo a Burgio. Cosa sei andato? A cantare, no? A cantare, sì. Nelle due andiamo, cantare gli auri. Ah, c'è per raffreddore, detto che non ci andate. Oh, vabbè, dai. Diciamo che meno. Salta Gianni Margherita. Buonasera Gianni. Ciao Margherita, tutto ok? Tutto ok adesso. Tutto ok adesso. Non dire Paola, ce l'ho mai educata. Meglio così, da, così, da. E Luca era impegnato, ecco perché non entrava. Ho detto che era impegnato per quello che non entrava. Era impegnato per quello che non entrava. Cioè, nel senso, mica può entrare lì. Al paracchino. C'era nessuno. E ieri non c'era nessuno lo stesso. Non c'è se macchina, chiamato la casa. Boh, non risponde nessuno, vuol andare a coprire l'importante per divertirsi e basta. Ehi, vabbè, ieri sono uscito già, capisco, ma non ho fatto tardi neanche, mezzanotte a casa. Ehi, ahia. Andave. E meglio per te, dai, che lo puoi fare ancora. Già, cazzo. Che la posso fare, vado. Ma non la posso fare più, me ne sto a casa, mi se ne frega. Ma infatti, no, ho detto, no, quello per te che lo puoi fare. Puoi fare. Cosa faccio? Io a quell'ora devo andare a prendere a lì, questo e quell'altro, e poi me ne sto a casa, guarda, mi televiso. E vabbè, l'hai fatto prima. Prima ero sempre in giro. Io sempre, già lo sai, anche in gita, sempre girando stavo. Prima. Quando avevo volato. Ma tu volendo nel mezzo a disposizione per voi, è una macchina di ultima generazione. Sì, quello già è vero. No, già mi sposto, l'altro giorno sono andato anche a Plattamona col cane, eccetera. C'è una bella giornata e siamo andati col cane. Ma se vuoi l'ecco già. Ho chiuso del tutto, guarda, va bene. Ma che il pezzo, ma c'è più il Colt, l'hai venduto? Il? Maracchino Colt. Cioè un giorno che l'ho venduto a un camionista di Olbia. Quanto? 4,50. Così l'ho pagato e così l'ho venduto, no, non ci ho né guadagnato né niente. La gamba è a posto, grazie a Dio. È che quella caduta che ho preso da Protollella, che ho sbattuto la costola, mi faccio ancora male. Via, per carità. Ha sbattuto al marmo dove si paga lì. Mi fa ancora male, sono già 2 settimane, passando pomata, dove sa che c'è qualche costola fratturata? Si presume di sì, ti fa male. No, sono caduto io ad Alghero, a casa di questi amici. Aveva preso la casa lì ad Alghero. Gli ha scivolata, cazzo, qua già. Ci fa tutto, lo zigomo. Lo zigomo ho sbattuto e era al fianco, che mi ha mancato il respiro, ma dolore, guarda. Meno poi sono cadute, ma come quella mai. Ho preso una casa che era da papperissima, stavo praticamente lavando in terra e ho detto ma se quando sto a asciugare in cucina mi prendo il telefono e gli occhiali e mi do una sguardata al telefono, là. Poi come asciuga faccio il resto. Beh, fatto sta che mi viene in mente che gli occhiali erano in cucina. Cosa ho fatto io, scemo? Ero con i piedi scalzi, cioè c'avevo le ciabatte però con i piedi nudi. Mi ho tolto le ciabatte per non fare l'impronte, è sbigliato una stampata. Ci sono caduto dentro il secchio si è rovesciato, tutta l'acqua in terra, in più mi è caduta la porta a soffietto addosso e non riuscivo più a alzarmi. Andavo a alzarmi, c'era il detersivo in terra e scivolavo. Alla fine mi sono attaccata la maniglia della porta, che mi sono alzato. Tu mi ricordi, sta ridendo come una scema, guarda, perché sto raccontando questa cosa. Come sta ridendo? Sto facendo l'uovo. No, la cosa che ho preso io, Gianni, guarda, è brutta. Cioè, smattere lo zigomo a... C'è 3 scaline, vado tutto la testa. Ma brutto, male. ho dovuto fare anche l'attacco, faceva una frattura allo zigomo. Ma Margherita sta ridendo per la caduta mia. Margherita fa da brava, che succede a tutti. Non si sa mai. No, lo posso stare, lo sto vedendo per Gianni, davvero. Devi sorprendere sempre. Ah no, per me. Perché? Non l'ho capito, vabbè. Se ridi e parli non si capisce quello che hai detto. Non sapevano per il culo, ma non a te già. Sì. No, vabbè, già ci sta, dai. Era da, te l'ho detto, era la paperissima quella che ho fatto io. Ti sono occupato del tausicchio, da poi si è rovesciata l'acqua, tutto un casino in terra, raccogliendo l'acqua con la paletta. Qua. Io rischio, Sì, c'è un uomo qua già, a 5 centesimi l'uno. Oh, cazzo, arriva a venire anche i goi, puga, dalle risate. No, no, spera in giro a me, perché sono caduto e ho fatto la testa, ta. È diverso. Per carità, queste donne. Come mille dei morti. E la vuoi fare in stereofonia, no? Una ride alla bassa e l'altra ride all'assa. Ah, no, l'altra compagna sta ridendo. E allora, è fisciata la risata. Immagino, vabbè. Queste donne già, ti avrei voluto vedere il tuo secchio, siccome sei piccolino, sì. No, ci ho messo il gomito del tuo secchio, come sono scivolato, sono caduto come signori, usato e ci ho messo il braccio nel secchio con l'acqua che c'era per lavare in terra, ho rovesciato tutto il secchio, quindi c'era detersivo, come andavo a alzarmi scivolavo, non riuscivo più a alzarmi. Insomma che non li vuole, se no ci me non li vogliamo a Sassari. Succede, la caduta mia è stata più brutta, tranquillo, molto brutta. Vabbè, cosa ci vuoi fare già? Succede il vivo, è molto non succede niente. Ma non c'è da scherzare, perché quelle cadute lì non ce la fai manco a mettere la mano, perché cadi di colpo, scivoli, boom, e non ce la fai manco a naspare, roba del genere, cadi di colpo e sbatti forte, capito? Beh certo, lo so già, tranquillo. Già lo so. So solo che io sono caduto con un salame. Ti ho detto, io andiamo a farci una passeggiata al mare. Sui tre scalini sono stati fatali, cazzo, mamma mia, tre scalini di merda, proprio sono caduto come un coglione. Poi alla fine il peso c'era, capito, 80 kg, tutti sopra al fianco, cavolo. Comunque sia, perché me ne fregavo delle cose, questa volta ho dovuto fare il controllo, cioè un controllo fatto bene, ma l'attacco soprattutto, no? Se no, un casino. Se ne ha preso il telefono adesso, pure io ne farà, aspetta un attimino già. Ah, okay. E niente, succede ai migliori. di succedere un sacco. E meno male ci possono raccontare lui. Ma come c'è manco le noghi? Infatti, non c'è nessuno già, boh, sgrazi malati non c'è nessuno. Ah, boh, a periodi entrano, poi c'è l'altro giorno, c'è la portante, coso, quindi la gente si sta stufando, capi? Sai cos'è già, l'hai fradito di merda, con quello sono scivolato, vuole sempre di merda. Grazie a ridere, grazie. Oh, certo, se cadi di tu, cazzo, spaccavi, tutti gli scali che spaccavi. Perché è robusta Margherita? No, è piccolina già, piccola, ma è 1,20 m, mi sa che è alta, 1,30 m. Vabbè, se sarebbe calottato, come avrebbe fatto danno alla villa? E poi quando è bagnato lui è un casino, quando è bagnato scivoli di brutto, sembra così, ma... Ho pattinato proprio con le ciabatte. E a piedi nudi ancora peggio, io mi sono messo a piedi nudi, immaginati, non dovevo fare l'impronta, capito? Il grande problema. La canzone dei cugini di campagna. Io l'ho fatta però non con quel tono lì, col mio tono l'ho fatta, e così è difficile a farlo. Andavo a piedi nudi per la strada. Se te la conto, ma io sono stato malissimo. Poi arrivavo a un certo punto che, come si dice, l'osso mi si è a pranzare, cioè stavo mangiando monzette, io cazzo morendo lì nel divano, un dolore forte alla testa, alla rosicomo, mal di testa, ero stordito già, ero stordito, infatti poi, però abbiamo preso un riflesso, non bene bene bene, cioè, come si dice? Insomma, devo fare ripetitiva, veloce, mi sono tornato all'ospedale a fare l'attacco. Vabbè, ma devi andare direttamente lì ad Alghero, al pronto soccorso, c'è l'ospedale lì, andavi lì e te lo facevano, e niente, e vabbè, dai. E non so, quando è così tu hai paura magari di rovinare la festa agli altri, non dici nulla, capito, e stai male tu, perché gli altri si divertono e tu stai male. E infatti io alla fine qualcuno si fa anche a ridere, non c'è cosa da ridere, aspetta un attimo già, arrivo. Vedo di caduti era giubilato un me, e una volta siamo andati con un amico, mi stava facendo vedere la casa che stavano costruendo in campagna, e sotto avevano già fatto il vino e avevano messo le butti, c'era la cantina che c'era già costruita sotto, e sopra stavano facendo il piano e mancava una pignata. Io non l'ho visto, cosa ci ho messo il piede dentro, ma poi così fare in cantina. E praticamente ho sbattuto il cucice, mi sono fratturato il cucice, sono svenuto. Argo! Luca! Oh già, dici sei? Sì che ci sono. Tu Crisio. Sì, già, facevo le parida a mamma. Tu la facevi le parida? Cosa? Ho detto, se tu la facevi le parida. Sì, dopo l'operazione. L'ho fatta per diverso tempo. L'ho fatta per un mese intero. Ma lo stesso, non si regge le gambe, cazzo. Poi ce l'ho fatta per un mese. 10 giorni, cazzo, allettata alla sua data. Gli effetti della guerra, principio ma... della resistenza. Purtroppo, un casino già. Adesso sta camminando. No, l'abbiamo portato noi in bagno, già si regge un po' con le gambe, cammina però ha bisogno. Ci vorrebbe un carrellino, uno di quei carrellini per camminare, di ambulatore. Ma di ambulatore cosa fa? Non c'è spazio a casa, ma... Ecco, ho capito. Vabbè, piano piano la dovete prendere da dietro, sotto le ascelle, la fate camminare, come facevo io con papà. Mi fa facevi fare il passo, tu dicevi il passo che faceva lì, piano piano ha camminato anche lui, perché anche lui dopo che è stato allettato si erano indeboliti i muscoli e non camminava più. Già, un casino, mamma è pesante già, non è gussino. Forse mai tu ci riesci, ma vabbè, pensate, se il cane addio, non è così semplice, semplice, ma è pesante, vabbè, ma io ce l'ho, ci viene alto, insomma sono pario con il prosciutto, se no tocca buttarlo, il prosciutto cotto si rovina subito in frigo, per buttarlo l'ho mangiato. Vabbè, ma tu vedi, anche la mortadella è buona appena comprata, poi si rovina, non fa lasciarla. Appena comprata, col pane caldo, va mangiata, ed è la sciccheria. Beh, fatto, c'è salame dura di più. Sì, salame sì, ma la mortadella boh, diventa cattiva, non mi piace più, il giorno dopo già sta cominciando a prendere un sapore strano, boh. E io prendo quella buona, quella suprema, quella buona. Poi tu mi dirai, sei scemo, a me la mortadella è il salume che mi piace di più. Il salame mi piace lo stesso, però la mortadella è il massimo per me. Sì. Non mi disturbo la frequenza. La mortadella, colpa del caldo, cavolo. Un po' croccantuzza, buona riccia, che se blè. Dimmi se la mortadella. No. Se c'è una maglia nuda. Ma mangia mortadella? Sì, che sarà cosa ti perdi. Lì invece salame, è vero, invece salame. Che giusto, cose così. Quello non ci mette mai. Così, Sì, salame a me piace quello grana fine, quello con la grana fine, mi piace di più. Sì, sì. Poi c'è quello sottile, quello di burro, buono è quello. Già, prova quello affumicato, cazzo, è una monta unica, guarda. Di chi è? Di burro? No, non lo so chi lo fa. Lo fanno qua in Sardegna, non lo so chi lo fa. Quello lo prendo al Conad. La prossima volta che ti capita, compralo, affumicato. E a me poi la cosa affumicata mi piace un bel, mi piace il salmone, mi piace la ricotta mustia, tutta la roba affumicata mi piace. Ma certo, e sono cose buone, oppure la... Come si dice, oppure la ricotta mustia affumicata, però piccante, buona ridda. Quella di pinna è secondo me la migliore che c'è in vinita, la ricotta mustia di pinna, è quella più buona, non è salata. Sì, ma la voglio col peperoncino. Ma io per mangiare la ricotta mustia devo avere sempre qualcosa da bere vicino, se no mi fa affogare, lo sai. No, a me no, se la ricotta mustia è asciutta sì, però quella che ultimamente che sto mangiando è buonissima, non c'ho bisogno di niente. Sì, l'abita la bevo, se c'è l'abita me la bevo, ci mancherebbe. Ma anche un bicchiere d'acqua, non me ne frega, non so perché te la faccia scendere qualcosa, perché mi si ferma in gola e mi fa affogare. Io sono particolare, io non posso mangiare, per dire, il gelato, è presente quei gelati che hanno le noccioline, tutte queste cose qua, le nocciole. A me mi irrita la gola e comincia a tossire, mi esce di luci. Sì, allora si dice, poi ultimamente ho notato una cosa, mi corico. Cazzo, mi posso volare con questo cazzo di tosse che sembra che non finisco più. È la gola asciutta, bevi acqua, la gola asciutta sicuramente, e anche la posizione ti asciuga la gola. Ma Margherita non la facciamo parlare stasera. Margherita, io voglio parlare con te. Io Margherita, raccontaci qualche cosa, dai, tu stai ridendo solo a sbaffo, non ci racconti nulla delle cadute tue. Immagino che cade lui, se mai è caduta dalla culla o dalla piccolina questa qua. Sì, no, quello l'ho fatto, si è sbattuto nell'occhio qua. non che volevo fare, non è fatto la testa. Lo so, perché è ancora giovane Margherita, c'ha l'equilibrio, riesce a reggersi, dai. Sì, beh, che me vede l'acqua di coso, beh, vedi quella, come si chiama, della pubblicità, che è l'equilibrio. Io adesso che mi sono ricordato, una brutta ricaduta, l'ho presa nella vasca da bagno facendomi la doccia, e praticamente c'era il tappetino, è scivolato il tappetino, si è staccato dalla vasca, io sono caduto, sbattuto prima la schiena e poi la testa in terra. Ti devo ridendo, Sammy. Deve arrabbiare qualcosa. Almeno si diverte, non sapevo più cosa fare, se un calcio di terra ero secco. Secco, non riuscivo a muovermi dal dolore. Perché sbattuto, l'ha spatto due o tre volte, ho cercato di reggermi, no. L'ha spatto, ho sbattuto la schiena al bordo della vasca e poi la testa in terra, se un calcio da capo in giosso. Casino. Dentro le aiuole, con Dea. Dentro le aiuole, che non fa? Dentro la porta. Oh, no. A casa tua. Camminando. Così. Comunque. Vabbè, dai. Succede, dove va? Succede, è migliori. E i peggiori. Però l'una l'ho visto bella, in Piazza Castello c'erano prima quei paletti, ce ne presenti quei paletti con le strisce rosse e bianche? Questo tipo stava dicendo cosa una ragazza, no? Stava facendo apprezzamenti tutti i generi. Se si accorge, se le palle si spalle tutte le palle. Questa cosa si è girata, almeno impari a rompere le scarpe. Perché adesso devo voler ecco già, che ti ripeto le parole, non ho capito un cazzo. Non ce l'hai di ecco. Sì, c'era, stai dicendo già questa ragazza? Allora, in Piazza Castello prima c'erano quei paletti con le strisce rosse e bianche, ce li hai presi? Ah, sì? E c'era questo tipo che stava facendo gli apprezzamenti a questa ragazza, gli stava dicendo che bella carrozzeria, questo e quell'altro, però non si è accorto che c'erano i paletti, è andato avanti e si è sbattuto le palle, ha fatto oia, oia, e quella lì almeno impari a rompere le scatole. Vabbè, diciamo che si sa anche a me quello, cioè almeno all'epoca no, la mia ragazza era eredda, la sintiamo l'ho preso, soprattutto i malluci soprattutto. Oh yeah. E quello era tutto convinto, di rigosa. E poi ne ho visto un'altra in via del Trieste dicendo cosa questa ragazza con la testa fuori dal finestrino guidando, scatta il rosso, si fermano le macchine e dice buh, e si è sbattuto. Cosa può succedere? Cosa vuoi fare? Succede ai poveri, succede ai ricchi. La maggior parte dei casi succede sempre ai poveri. Ma la colpa è sempre delle donne. Infatti, cos'è questa cosa? Miele, che cazzo è? C'è miele questa cosa, guarda. È miele sicuramente. Cosa cazzo? Vabbè, prendiamoci la salute già. E sta per la salute, ho poi le scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. Cosa già? Basta salute, ho poi le scarpe nuove che poi gira tutto il mondo. Tutto il mondo. Guarda una cosa già, se manca la salute, ciao. Per fare la vita meno amara, mi sto comprando sta chitarra. Hai capito? Ma la chitarra suona dalla stai? No, che vuole entrare avanti? Facciamo qua, stava fischiando, forse va che sblatter. Magari qualcuno stava provando a stazionare roba del genere. Ma io mi sa che mi incappo e vado a portare giù il cane, dai. Saluto tutti gli ascoltoni. Buona serata anche a te e a Margherita. Ci sentiamo. Ciao! E ya, ciao, ciao, alla prossima, saluta Gianni Valghieri. Ciao, ciao Gianni, si chiama. Ciao. ciao Margherita, ciao, ci sentiamo, dai. Fai da bravo. Sì sì, allodrome. Amanda, bucia, a questo qui che è venuto, come mi ha sentito che l'ho portato, è venuto subito vicino a me, ma guarda che sono intelligenti. Lo so, ma che idea, se la chiamo viene subito. Quindi è lì. Se dico io, insomma, ti vedi. Beh, sono intelligenti, sì. Lei ha un'intelligenza unica, guarda. Tu non hai idea. Tu non hai idea, la chiamare, sta dormendo. Vabbè, dai, ci sentiamo già. Una passeggiata, sta piovendo comunque, non so se ti interessa. Piovendo sta, no, non si grido. E vabbè, se fa il porticato lo porto. Ciao, ciao. Ciao. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.